già arrivata. Postumi, di schianti e botte da elefanti. È la, ah, ah, ah, è la, ah, ah, notte di Mirella. Mirella è sempre più bella. L'effetto del bere raggiunge i limiti impensati. E quando la lunga notte si avvia al suo declino, un risveglio travolgente l'attende all'alba di domani. Certo, sarebbe meglio restare in preda della notte, camminare in punta di piedi sulle ombre di presunti amici, ma forse dovevo andare così. La storia già